24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno cari ascoltatori, le 7:20 minuti, eccoci qua col nostro Peter Bescapè in regia e la nostra redazione già pronta. Siamo anche online su Facebook, 24 mattino, ci trovate anche su Twitter, così 24 mattino, cinguettiamo anche noi ogni tanto. E allora oggi torneremo a occuparci intanto della vicenda del condono dei manifesti abusivi dei partiti, Vi ricordate? Bene, torneremo a ospitare l'onorevole Ugo Sposetti del PD, perché ieri dietro fronte il governo è pronto ad affossare il solito emendamento che prevede il condono dei manifesti abusivi. E allora stavolta forse i partiti non ce la faranno a condonarsi le maxi multe dopo aver imbrattato le città con la campagna elettorale, con i manifesti. Vedremo. Poi parleremo dell'Italia bloccata, le proteste, gli scontri ieri anche a Palazzo Chigi da parte dei pescatori, e qualche ferito. Insomma, tassisti, pescatori, forconi, autotrasportatori, l'Italia bloccata, questo dalle 8:30. Prima, andando con ordine, vediamo cosa ci propongono i quotidiani in edicola. È giovedì 26 gennaio, uno sguardo ai titoli di apertura, Il Sole 24 Ore, pensioni, intesa su più fondi, questo è il titolo di prima pagina. C'è chi si occupa del fisco, il Corriere della Sera, fisco più facile con un decreto, questo è il titolo di apertura. Per Repubblica, fisco, i 18.000 super truffatori. E il Messaggero, scoperti i furbi del fisco, dipendenti statali col doppio impiego e finti poveri. Gli scrocconi, così è il titolo del giornale, alla faccia degli onesti. Per La Stampa, una doppia apertura, una prima copertina dedicata, titolata allo Stato dell'Unione e dedicata all'Europa, perché La Stampa inizia questa campagna con altri 5 grandi giornali europei, un viaggio per capire cosa ci unisce e cosa ci divide dunque sull'Europa, mentre l'apertura quella del quotidiano, la prima pagina classica, sanità, rivoluzione per i ticket. Per il Fatto Quotidiano, Monti e la cambiale da 900 miliardi, questo è il titolo d'apertura, mentre L'Unità e Manifesto si concentrano sull'indagine di Banca Italia che ha monitorato la ricchezza, o meglio la povertà, si potrebbe dire, anche delle famiglie italiane. L'Unità, le due Italie, aumenta il divario, il 10% degli italiani ha la metà della ricchezza. E il Manifesto, viva il ricco, questo è il titolo con un teschio in prima pagina. Nell'Italia in recessione aumenta la povertà e le tensioni sociali, solo i ricchi crescono. Per Libero invece, Monti si fuma il PDL, questo è il titolo con un sondaggio shock. Il popolo di sinistra lo indica come suo vero leader e lui ricambia cassando le riforme sgradite al PD. E Libero titola: che aspetta il centrodestra a mandarlo a casa? Ma le prime due segnalazioni che vi voglio fare è intanto una che è una polemica che nei giorni scorsi c'era e ora è montata, ora Gian Antonio Stella la mette in prima pagina del Corriere della Sera. Il titolo è La doppia poltrona del ministro. C'è il ministro dell'istruzione Profumo, Francesco Profumo, che dopo più di 2 mesi dalla nomina rimane ancora presidente del CNR, che controlla in quanto ministro. Una legge, scrive Stella, in realtà pare chiara. Dice che il titolare di cariche di governo nello svolgimento del proprio incarico non può ricoprire cariche, uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico. E allora perché non si dimette dal CNR? Profumo e quel mancato bel gesto, questo è il titolo dell'articolo di Gian Antonio Stella, che scrive: Profumo, accolto con dichiarazioni di pubblica stima da una larga parte del mondo della politica, della scuola, dell'università, ha giurato al Quirinale il 16 novembre. Sono scaduti già i primi 30 giorni, poi i secondi 30 giorni, il 15 gennaio, da allora ne sono passati un'altra decina senza che venisse fatta chiarezza. Profumo ha dichiarato: sto aspettando la risposta dell'antitrust, cioè per capire se sono incompatibili le due cariche. In ogni caso, aggiunto, da quando sono stato nominato ministro è stato nominato un vicepresidente al CNR che se ne occupa e c'è pure un sottosegretario che ha la delega. Peccato, scrive però Gianantonio Stella, per quel mancato bel gesto. Tanto che, conclude l'articolo Stella, questa sua voglia di rimanere comunque ancorato a due poltrone fa pensare ai maliziosi così. Si vede che in fondo non è poi sicuro che Monti duri a lungo. Sempre in ambito universitario vi voglio segnalare un bell'articolo che il Secolo XIX, un articolo inchiesta che il Secolo XIX fa su Michel Martone, il vice ministro, quello degli sfigati, e ora qui in studio in questo momento siamo io e Peter Bescapè dall'altra parte del vetro, quindi rispetto a ieri dove eravamo 2 su 3 non sfigati, ora siamo al 50% in un veloce sondaggio. Peter Bescapè è lo sfigato che ha 28 anni, non è neanche laureato, io invece sono il, non so, il non sfigato, ecco, mettiamola così, come dice il vice ministro Martone. Ebbene, Martone, ma che ragazzo prodigio il vice ministro, è un raccomandato spinto da tutti. Francesco Margiocco, prima pagina del Secolo XIX, è andato a spulciare nella commissione d'esame che ha dato il ruolo di docente ordinario a 29 anni, davvero quasi un record forse in Italia, a Michel Martone. 7 luglio 2003, quel giorno si riunisce la commissione giudicatrice del concorso che corona la carriera accademica di Martone, professore ordinario in diritto del lavoro. Ebbene, il Secolo XIX possiede una versione integrale del verbale. Basta telefonare anche a uno di quei 5 commissari del concorso per apprendere che Michel Martone è definito un raccomandato di ferro, iperspinto da tutto il mondo. Uno dei 5 commissari che vuole rimanere, per la verità, anonimo. Non è il peggio che mi sia capitato, ma è stata un'esagerazione spingerlo avanti così, ora precisa l'ex commissario chiedendo l'anonimato. Comunque, col voto favorevole di 4 su 5 commissari, nel 2003 Martone conquista tutti i suoi giurati, salvo 2 eccezioni, il presidente della commissione Mattia Persiani e un altro dei commissari Roberto Pessi, che non sono per nulla entusiasmati. Sta di fatto che, ecco, il Secolo, leggiamo i commenti dei commissari. Silvana Sciarra nel verbale dice che i numerosi riferimenti della monografia di Martone sono caratterizzati da passaggi argomentativi non del tutto esaustivi, nonostante ciò dà un parere favorevole. Il collega commissario Marcello Pedrazzoli conia addirittura un neologismo per esprimere il proprio disappunto su un'opera di Martone: troppa improvvisazione e affrettatezza. Ebbene sì, affrettatezza. Ma anche lui alla fine si convince, nonostante ciò il candidato appare dotato. Meno lusinghiero Francesco Liso, commissario della Sapienza, che dice: la seconda monografia di Martone mostra vistosi segni di una redazione eccessivamente frettolosa, pertanto merita di veder riconosciute le sue indubbie qualità in un'occasione in cui la dichiarazione della sua piena maturità costituisca frutto più di una certificazione che di un'aspettativa. Insomma, Martone è promettente, ma non ancora pronto. Infine, caratteristiche, scrive il Secolo XIX, tutte caratteristiche, invece la padronanza della materia, che appartenevano all'altro concorrente di quel concorso, Franca Borgogelli. Su di lei un verdetto inequivocabile: 5 voti favorevoli su 5, eppure vince il concorso Martone. Perché ho vinto quel concorso, racconta ora al Secolo XIX Martone, bisognerebbe chiederlo ai commissari. Poi aggiunge: credo però che abbiano voluto scommettere su un giovane con un atto di coraggio. E poi in quella commissione il presidente era il mio maestro Mattia Persiani, che si batté come un leone perché credeva in me e che negli anni seguenti vigilò su di me per garantire che mi dimostrassi all'altezza del mio incarico. Insomma, il Secolo XIX va a spulciare negli atti della seduta di quella commissione che permise a Michel Martone di diventare docente ordinario. Il viceministro prodigio, ma che un ragazzo raccomandato. Così sul Secolo XIX. Allora, molti quotidiani aprono sull'evasione fiscale. Ieri, tra l'altro, si è svolta la 21ª edizione di Telefisco, un successo con oltre 100.000 professionisti. L'annuale convegno dell'esperto risponde sulle principali novità fiscali per quel che riguarda quest'anno, il 2012. Trovate tutti i dettagli e tutte le pagine dettagliate sul Sole 24 Ore, l'edizione di oggi. Ma aprono tutti sul fisco, i quotidiani o molti sul fisco, soprattutto sui nuovi dati dell'evasione fiscale. Intanto il direttore dell'Agenzia delle Entrate a Telefisco ha promesso maggiore semplicità, cioè l'evasione fiscale, e questa per la verità la sentiamo da tempo, da tanti anni, però l'evasione fiscale si combatte, ha detto Befera, anche con una semplificazione normativa, no? Se ci fossero dichiarazioni dei redditi di due paginette, ha detto Befera, invece delle 40, 80 o più pagine attuali, allora si potrebbe anche, con la semplificazione delle normative, riuscire a combattere gran parte dell'evasione fiscale, essere più chiari. Beh, certo, il dato che oggi trovate sul Sole 24 Ore a pagina 13, nel 2011 scoperti 18.000 truffatori dalla Guardia di Finanza, il bilancio e tutti i dati sono raccolti in una pagina curata da Marco Mobili, sono abbastanza inquietanti. Frodi allo Stato, e ce ne sono davvero da ridere per non piangere, perché i fondi per un'azienda, per esempio del fotovoltaico, che finivano in una cartiera. Ma guardate questi, i farmaci prescritti da un medico, un paio di medici che evidentemente erano affetti da iperprescrizione di farmaci, soprattutto quelli rimborsati poi dallo Stato, solo che nella fretta o nella voglia di prescrivere ricette, hanno anche scritto e prescritto farmaci per la prostata a delle donne, no, capite? Oppure c'è il falso cieco al volante, vabbè, questo è un gran classico, il falso cieco beccato con le forbici in mano mentre tagliava un qualcosa di fino, davvero complimenti, aveva affinato evidentemente questa qualità. E insomma, ci sono storie, anche Repubblica le mette a pagina 2 e 3, le storie, beh, c'è la pensione ai finti morti, no? Si continua a riscattare alla pensione di una persona che è deceduta, la parrucchiera di Grido che era cieca per la previdenza, anche questo su Repubblica, a Ravenna, oppure all'Aquila, i contributi doppi per appartamenti e hotel, il business del fotovoltaico, l'abbiamo detto, alla Lamezia Terme, i bilanci di pura fantasia scovati a Crotone, 11 persone in una società di capitali nella logistica. Insomma, trovate una bella fotografia del nostro paese anche per il Corriere della Sera, pagina 13, il rapporto della finanza, i professionisti delle frodi, così sono stati rubati 2 miliardi di euro allo Stato. C'è anche lo skipper che ospitò Nicole Kidman, che è finito nel mirino della Guardia di Finanza. Mentre un altro aspetto, un dato economico sul quale si concentrano diversi giornali, è l'apertura di Unità e Manifesto, è l'analisi di Banca Italia sui redditi delle famiglie. L'Unità mette il titolo di prima pagina: le due Italie, aumenta il divario, il 10% degli italiani ha la metà della ricchezza e non è solo colpa della crisi, mentre il Manifesto titola appunto Viva il ricco, a pagina 4, firma Roberto Tesi, il titolo è Cresce solo la povertà, questo in un'indagine di Banca Italia che rivela come i redditi non crescano e la popolazione povera sia salita al 14,4%, una cifra che arriva al 40% negli immigrati. Peggiora la distribuzione della ricchezza, al 10% degli italiani, quasi il 50% del totale della ricchezza. Tanto che appunto il Manifesto titola in prima pagina Viva il ricco, e l'editoriale di prima pagina firma Galapagos è una piramide con una base sempre più larga e un vertice più sottile, quella che emerge dai dati di Banca Italia sulla distribuzione dei redditi e della ricchezza. Solo un paio di dati. Nel 2010 il 14,4% della popolazione era ufficialmente in una situazione di povertà a causa di un reddito insufficiente, il tutto mentre il 10% delle famiglie più ricche possiede il 46% della ricchezza totale, stimata in circa 9 mila miliardi di euro. Semplificando, circa 6 milioni di italiani possiedono in media una ricchezza di quasi 4.200 miliardi, circa 700 mila a testa, contro 54 milioni di persone che, sempre in media, hanno un patrimonio di circa 90 mila euro. Ecco, questa forbice, questo divario aumentato spinge appunto l'Unità, il Manifesto, l'Unità in particolare, a titolare le due Italie, per capire appunto il divario sui redditi. Ieri c'è stata questa notizia che nel decreto mille proroghe, per chi segue la politica, in pratica si può tradurre così: le pensioni salvate dalle sigarette. E questo è il titolo del Sole 24 Ore, a pagina 15, nel decreto mille proroghe, per trovare dei fondi per coprire i soldi per i pensionati, che cosa si è deciso di fare, racconta Marco Rogari, si è aumentato il prezzo delle sigarette. È interessante il tema, anche se si vuole dire, che ne pensate, è giusto che nel momento in cui bisogna fare cassa si va a pescare dove? Aumentando le sigarette, quindi tassando il vizio, si potrebbe titolare così. Tanto che Libero mette in prima pagina: Monti si fuma il PDL. In realtà è una questione politica che Libero vuole mettere in evidenza in prima pagina, vale a dire questo sondaggio che ieri è stato presentato, anzi due giorni fa, a Ballarò, secondo il quale il 70% degli elettori del Partito Democratico vorrebbe Mario Monti premier, mentre nel PDL piace solo a 2 su 5. Ma certo, si fuma il PDL, è questo, no? La questione della nuova tassa sul tabacco, scrive Libero. E in più si fuma il PDL perché, secondo Libero, insomma, cresce il malcontento all'interno del centrodestra del PDL nei confronti di Monti, tanto che Libero, con il suo direttore Maurizio Belpietro, chiede in maniera esplicita che aspetta il centrodestra a mandarlo a casa. E tra l'altro questo dell'aspetto politico è un aspetto evidenziato da vari giornali, e cioè il fronte proprio di un Popolo della Libertà sempre più in subbuglio per l'appoggio a Mario Monti, tanto che secondo, già ieri dicevamo che i prossimi giorni saranno decisivi, secondo Francesco Bei su Repubblica, retroscena politico, il professore inizia a temere il Popolo della Libertà, non so se riesce a tenere fino alla fine, un Popolo della Libertà che è dato in subbuglio proprio perché già ieri, è vero che Monti ha ottenuto 468 voti favorevoli, quindi un voto bulgaro, ma ci sono stati anche una sessantina di astenuti all'interno del PDL. Come dire, cresce il malcontento all'interno del Popolo della Libertà. E anche sul Foglio, in prima pagina, la lettura politica di Salvatore Merlo è: la larga coalizione c'è, ma solo sull'euro mozione. Il PDL in realtà è diviso sulle elezioni. E anche il Giornale, a pagina 10, le tre scelte del Cavaliere: o ingresso al governo, o opposizione, ma anche le urne. Anche perché ieri Bossi è tornato a tuonare. O fa cadere Monti, oppure noi togliamo l'appoggio a Formigoni, il governatore della Lombardia. Questo ricatto politico è stato rilanciato da Umberto Bossi. Noi, oltre a occuparci del, e tornare sul tema del condono ai manifesti abusivi che vengono affissi in ogni campagna elettorale da parte dei partiti, che imbrattano le città, e poi cosa fanno? Si fanno un bel condono, cioè invece di pagare le multe ai comuni, pagano 1000 euro a provincia e così si condonano milioni di euro di multe. Questa volta il governo ha detto no, è stato affossato questo emendamento condono ieri al mille proroghe, è stato fatto un emendamento a firma del ministro Giarda a dire questo emendamento va tolto, e quindi chissà, pagheranno? Oppure i partiti escogiteranno in Parlamento un nuovo emendamento che ripropone il vecchio emendamento cassato? Ne parleremo alle 8.20, mentre alle 8.30 Parleremo di Italia bloccata, le immagini le vedete, avete sentito anche il sonoro questa volta dei pescatori che sono stati colpiti, che ora denunciano noi picchiati, per esempio in un articolo di Mario Aiello sul Messaggero, noi pestati, tassisti no, e invece noi appena siamo andati a protestare abbiamo ricevuto le botte in testa, ci sono foto di pescatori sanguinanti, protestano anche loro per il caro carburante, il caro gasolio, dicono ci affossano così, oppure anche le patenti a punti, insomma... Italia bloccata, ci sono anche appunto gli scontri, autotrasportatori, forconi, tassisti, ora i pescatori, un'Italia che è bloccata, gli avvocati protestano, oggi troverete su tutti i quotidiani una paginata intera di pubblicità comprata dal Consiglio Nazionale Forense con lo slogan gli avvocati difendono i tuoi diritti, tu difendi il mondo che ami, hanno comprato questa pagina per protestare, certo non andranno in piazza come i pescatori, gli autotrasportatori, ma faranno 2 giorni di sciopero prossimamente, e dunque insomma c'è un'Italia che protesta in maniera più o meno rumorosa, ma che protesta in maniera evidente. E allora, notizie dalla casta. Beh, intanto la stampa, pagina 8, Fini, mi taglio lo stipendio, e subito scoppia il panico tra gli onorevoli graduati. La vicenda riguarda... che cosa? Riguarda un'idea che sta frullando, pare, nella testa del Presidente della Camera, che è quella di tagliare del 10 o del 15% le indennità di carica. Di cosa si tratta, cari ascoltatori? Non pensiate che stiano per tagliarsi il lo stipendio. Ma pensavate che i parlamentari avessero solo 14.000 euro netti al mese, tra tutto più o meno di stipendio? No, ci sono 200 parlamentari, tra cui anche Fini, che hanno le indennità di carica, cioè sei presidente della Camera, hai un'indennità aggiuntiva di 4.000 euro, oppure presiedi una commissione permanente, hai un'indennità aggiuntiva di 2.800 euro, quindi si sale a 16.800, o nel caso di Fini a 18.000 euro di stipendio. Ebbene, Fini è pronto a far tagliare del 10-15% questa indennità aggiuntiva, nel suo caso dunque sarebbe una sforbiciatina di 400 euro più o meno, dell'indennità di 4.000 euro, per chi presiede una commissione da 2.800 euro si taglia 280 euro, 300 euro, insomma una piccola limatina, però insomma c'è quest'idea che potrebbe essere portata in porto la prossima settimana. E poi, cari ascoltatori, c'è un Arsenio Lupin in transatlantico, così denuncia l'onorevole Paola Goisis della Lega, ha lasciato improvvidamente una collana nella sua borsa, valore 3.000 euro, è andata un attimo, non so, alla toiletta a fare un giro, è tornata e la collana non c'era più. Mi hanno rubato una collana d'oro in Parlamento. La denuncia della leghista Goisis, che poi dice vabbè, ma è un gran movimento qui in Parlamento, non accuso i parlamentari, ci sono tantissime persone, c'è chi potrebbe dire da oggi ci sono dei ladri in Parlamento, ha buon ragione, visto che non lo dico io, lo dice l'onorevole Paola Goisis. Ladri! Potete dirlo ben forte oggi in maniera accertata, rivolto al Parlamento, così anonimo è qualcuno che ha fatto sparire questa collana. E poi il giornale, a pagina 5, i fondi della regione servono a finanziare la casa dell'assessore. È una vicenda che riguarda la regione Umbria, dalla giunta del PD, 83.000 euro per i lavori. La titolare all'agricoltura, l'assessore all'agricoltura dice è stati 83.000 euro per ristrutturare una casa, dice lì vive mia sorella, in maniera candida. Sono fondi che racconta Gianmarco Chiocci, sono andati anche a Gioia Cecchini, che potrà pagarsi il 50% della ristrutturazione della casa in cui vive grazie ai soldi stanziati dall'assessorato all'agricoltura della regione Umbria, dove, coincidenza, siede come assessore sua sorella Fernanda. Cosa c'entri lo sviluppo rurale con la ristrutturazione di un'abitazione sfugge. Però il fatto è questo: il giornale contatta la signora Gioia Cecchini, che dice affretta, giura che sarà lei a richiamare di ritorno dal lavoro, ma attesa vana. Sua sorella invece, Fernanda, assessore appunto alla regione Umbria all'agricoltura, precisa che i bandi sono emanati sulla base di criteri di selezione che non vengono approvati dalle strutture regionali ma da un comitato di sorveglianza. Il bando è partito molto prima che arrivassi io come assessore. Insomma, però, la domanda: ma su quella casa che fa parte del patrimonio di famiglia, lei assessore detiene o no qualche quota? La risposta dell'assessore è: non saprei, dovrei consultare il geometra, forse dal punto di vista formale, ma non lo so. Insomma, accusa il giornale, i fondi della regione Umbra servono a finanziare la casa dove c'è la sorella dell'assessore all'agricoltura. E poi, volete l'ultima notiziola dal mondo della casta? Su Libero, pagina 11, l'arredatrice della Camera è la stessa da 12 anni. Enrico Paoli scrive: poi c'è la castina, quella che lavora nell'ombra, che non appare troppo ma fattura abbastanza, soprattutto se la consulenza con la Camera dei Deputati, e il caso in questione rappresenta il paradigma dell'intera storia, da occasionale diventa strutturale, al punto da far pensare a una sorta di dipendente mascherato. È la storia del consulente artistico e architettonico della Camera, l'architetto Renata Cristina Mazzantini, che presta la sua opera per l'aula di Montecitorio ininterrottamente dal 2003. Un primo contratto di consulenza arriva sotto la presidenza Casini, per essere prorogato regolarmente dalle due presidenze successive, Bertinotti e Fini. L'ultimo rinnovo, scattato proprio in questi giorni, di durata triennale, garantirà l'incarico all'architetto fino al 2015. Insomma, una anomalia vera e propria, visto che le consulenze in genere non superano il biennio. La consulenza ultima è di 105.000 euro e così, dice Libero, in qualche modo una sorta di castina, oltre alla casta, di chi lavora le consulenze con la Camera. Vabbè, siamo in chiusura, segnalo solo due cose: che il Fatto Quotidiano oggi con Marco Lillo e Ferruccio Sansa fa una sorta di puntata 2 sulla vicenda che ieri è stata sparata in prima pagina col titolo d'apertura, oggi è Ombre Nere, i PM riaprono il caso Picchiatori, è una vicenda del 2 giugno 2009 quando una comitiva di 14enni picchia un loro coetaneo dopo aver fatto dei saluti fascisti, e ad assistere a questa scena, dice il Fatto Quotidiano e dice la procura, c'era anche il figlio minore del sindaco Gianni Alemanno. Una vicenda che denunciava ieri il Fatto stava per essere archiviata. Ora la procura, dopo questa aggressione fascista definita sul Fatto Quotidiano, ha riaperto l'inchiesta, mentre il sindaco ieri, Gianni Alemanno, ha detto bisogna tutelare i minori e si è detto molto indignato da questo articolo del Fatto Quotidiano. Sta di fatto che oggi il Fatto rilancia con un'altra paginata, pagina 7. E infine una segnalazione: cosa succede in un'azienda, una filiale svizzera di una azienda che ha sede a Seriate in provincia di Bergamo? Dice Repubblica, pagina 22, il diktat dell'azienda svizzera: in pausa caffè non più di due per volta. Pare che in questa azienda, secondo il direttore, ci fosse l'usanza, 40 dipendenti, di fare i soliti accrocchi alla macchinetta del caffè in 5, in 10, non si sa. E insomma, avviso shock all'azienda, i lavoratori dicono a una vendetta in due per volta e non di più al caffè. Io e Peter adesso andiamo a berci un bel caffè, siamo in due, si può. 24 mattino. Eccoci, ben ritrovati da Alessandro Milan, le 8:22 minuti. Vogliamo tornare a parlare dei manifesti abusivi della campagna elettorale dei partiti, e lo facciamo, e torno a salutare con piacere l'onorevole Ugo Sposetti. Buongiorno, ben ritrovato. Buongiorno. Partito Democratico. Pensavo che lei non mi chiamasse più, invece. E invece vede, perché a noi piace la pugna, così la battaglia. Allora, il dato di fatto è questo: c'è stato un emendamento del ministro Giarda che ha soppresso di fatto l'emendamento condono dei partiti. Titolo di Libero: Monti beffa la casta dei partiti. Su questo le piace, onorevole Sposetti? Ha perso o avete perso? Ma io ho già detto la scorsa settimana, quando lei gentilmente mi ha chiamato, che chi fa il lavoro che ho fatto io e che ancora continuo a fare è una vittima dei manifesti abusivi. E quindi Libero ancora insulta la vittima, cosa che non si dovrebbe fare, perché la vittima andrebbe sempre aiutata, no? Dovremmo aiutarmi. Guardi che questa del vittima ai partiti, proprio anche i nostri ascoltatori su Facebook non l'hanno proprio capita, non l'hanno digerita questa sua idea di dire chi mette i manifesti abusivi il partito è vittima di questo, perché Sì, perché se lei fa l'attacchino con un manifesto prodotto dai Democratici di Sinistra allora, oggi dal PD, da un altro o da un candidato in campagna elettorale, lei mira, fa un attacchino. Sì, sì. E poi io sono la vittima della sua non correttezza nell'affissione dei manifesti, sono la vittima, perché devo pure trovare, dopo aver trovato i soldi per stampare i manifesti e magari mandato soldi all'organizzazione territoriale per lo svolgimento della campagna elettorale, devo pure ritrovare le risorse per pagare le multe. E qualcuno dice trovate degli attacchini che rispettano la legge. Difatti. Sa che cosa rispondo anche al ministro Giarda? Che lui dovrebbe fare un appello, non è suo, ma io questo lo farò, troverò il modo di farlo, e quindi lei mi dà l'occasione stamattina, che i nostri dirigenti dovrebbero rifiutarsi di partecipare a un'iniziativa pubblica quando i manifesti non sono affissi regolarmente. Ah, perché anche lì vengono affissi in maniera... Ma certo, lei sta a Milano, sì, vero? Sì, mi pare che mi chiamate da Milano, sì. Perfetto. Se lei esce, se le manda qualcuno dei suoi su Roma, da giorni è pieno di manifesti abusivi e di dirigenti nazionali che partecipano a queste manifestazioni. Mm. Per esempio, cioè, non so, c'è un convegno in cui c'è anche il ministro con un manifesto abusivo? No, il ministro. Fortunatamente questi ministri non partecipano ai convegni e quindi si salvano dai miei insulti. Ma perché vi stanno un po'? Monti deve recuperare soldi, ha detto basta con questa cosa di emendamenti, che ogni anno c'è questo condono. A lei piace questa storia dei manifesti abusivi, ma la multa, siamo costretti poi a fare ricorso, perché se io passo col rosso, la multa è fatta in prima istanza è mandata perché al proprietario della macchina, ma se io guido una macchina in affitto o guido una macchina di un cugino, di un parente o di un amico, o la macchina di Mila, ma perché Mila deve pagare la multa? La paga chi guidava la macchina. Ma mi sta dicendo che i partiti faranno i ricorsi su questo? Io certo che sono costretto a fare ricorso, non l'ho attaccato mica io il manifesto. Perché il vigile urbano chi del comune di Milano, che ha seguito le campagne elettorali, vediamo il comune a Milano, che deve andare a cercare eventualmente il candidato l'attacchino, o beccare l'attacchino quando attacca il manifesto. Perché sul manifesto si fa presto a sapere chi l'ha attaccato, non c'è, perché chi attacca i manifesti così nelle campagne elettorali o anche fuori, sono due o tre società che fanno sto lavoro, si beccano le società e sono loro, non i partiti. Siamo vittime. Siete vittime. Io Sposetti sono una vittima di chi ha attaccato in tutti questi anni i manifesti fuori dagli spazi. Senta, al di là dei manifesti, poi vedremo, farete ricorso. È vero la sua dichiarazione di recente al Corriere, quando c'è tutta la campagna anticasta, siamo dipinti come dei mostri ormai? O lei o Matteoli forse l'aveva detto? C'era quella intervista incrociata che ho costruito Andrea Garibaldi. Sì, insomma, io vorrei essere rispettato per il lavoro che faccio, cioè adesso non lo so quanti fanno, ma io dalle 8:10 ero qua in ufficio, dice che fa? Che fa? Intanto guardi i giornali, intanto guardi, senti la rassegna stampa, guardi tutto quello che ti è arrivato. Io faccio pure il lavoro del partito, quindi faccio qualche cosa di più di un semplice parlamentare, però devi andare in commissione, devi studiare le carte, devi andare, devi votare, devi sapere, cioè questo non vedo perché debbo essere... lei per costruire una trasmissione non è che c'ha mezz'ora della trasmissione, deve preparare. No, è chiaro, mi hanno chiamato ieri pomeriggio due volte. Ma siete pagati troppo? Siete pagati troppo? No, perché adesso pare che arrivi un'altra sforbiciatina settimana prossima. Guardi, sulle indennità, per esempio, di carica. Fini vuol togliere le indennità a chi è presidente di commissione, presidente lui stesso della Camera. Ma senta, lei non mi deve trascinare in questa discussione stamattina. No, perché le rovino la giornata, no? Okay. No, perché dopo io esagero nelle risposte. Esageri, qua non ci ascolta nessuno. Perché chi se ne frega. Dopo a me mi viene da dire quello che penso realmente. Vabbè, c'è un minuto, dica in un minuto quello che pensa a me. Una cosa. Senta, che pensa. Qui chi doveva difendere la politica, i partiti e le istituzioni? Non l'ha fatto. Le basta la risposta? Le istituzioni è un po' tanto, però. Chi doveva difenderla? Non... Beh, se io sono amministratore di un'azienda, difendo la mia azienda, che dice? Lei difende la sua trasmissione, sì. Sì. Certo. Quindi i leader di partito dovevano difendere? I leader di partito, i presidenti di Camera e Senato dovevano fare prima e di più dopo questa. Abbia pazienza. Ma l'idea si tira la cinghia, la si tira tutti? Non... Ma sì, ma figuriamoci, ma certo che si deve fare questo si deve fare. Però non penso che io faccia una vita da nababbo, questo non lo faccio, non l'ho mai fatto. Non lo so, poi sa, secondo me tutte le aziende che percepiscono soldi pubblici dovrebbero pubblicare gli stipendi dei loro dirigenti e dei manager, compreso i giornalisti della RAI pubblica, sì. E anche del suo giornale, del suo editore, finché hanno preso le risorse. Le risorse, perché? Scusimi, se e quelli sono fondi pubblici, sono sgravi fiscali, sono diversi per esempio dai fondi ai giornali e ai partiti. Guardi, ce l'ha un altro minuto? Sì, 30 secondi. Sì, allora, un minuto. 4 anni fa l'editore Sole 24 Ore era in perdita di 13 milioni di euro, va in attivo di 1 milione di euro perché riceve dallo Stato 14 milioni di euro. Sgravi fiscali? No, sgravi fiscali. Non sono i fondi che prendono, per esempio, i contributi, ma non sono i fondi, dei giornali di partito. Assolutamente, no. Cioè fondo a fondo perso. Ma perché se il suo editore se io vado, non so, le faccio un esempio. Ma le pare possibile che la Confindustria prenda soldi dallo Stato o RCS che è pieno di società? Scusi Sposetti, se io vado dal macellaio sotto casa e gli dico tutti i giorni ti compro 100 kg di carne, forse me la fa pagare un po' meno il prezzo al chilo, no? È la stessa cosa se il Sole 24 Ore usa l'energia molto di più del giornaletto di provincia, no? E quindi ci avrà uno sgravo fiscale su questo. No, non è informato. Sono informato, però il tempo è finito. Per condurre la sua trasmissione, ma sui contributi pubblici ai giornali io le manderò una memoria di quanto ha preso il suo giornale. Ma magari che è una cosa pubblica e non... Allora lei faccia una trasmissione su questo. Guardi, la facciamo, lo prometto. Va bene. La facciamo. Intanto la ringrazio. A lei. Grazie a lei, Ugo Sposetti, e ai suoi il Partito Democratico. 24 mattino 800 24 00 24, se volete intervenire. Allora, l'Italia è bloccata, autotrasportatori, tassisti, avvocati. Oggi troverete paginate sui giornali di avvocati che protestano, hanno proclamato lo sciopero e hanno comprato pagine di pubblicità per dire perché protestano. I pescatori, l'ho detto, i tassisti, i farmacisti, i forconi. Vabbè, l'Italia è bloccata. Ne discutiamo con il direttore del Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro. Buongiorno e ben ritrovato, direttore. Buongiorno. Così come saluto il direttore del Giornale, Alessandro Sallusti. Buongiorno anche buongiorno. A lei. Allora, intanto, Padellaro, a furia di evocare i forconi metaforicamente sono arrivati anche fisicamente. La stupisce il fatto che siano arrivati non contro la politica ma contro i tecnici, se vogliamo? Ma sono arrivati contro quel governo che avevano a disposizione, nel senso che se ci fosse stato anche un altro governo di destra o di sinistra non sarebbe cambiato lo scenario, nel senso che al di là di certe forme ribellistiche e anche di qualche episodio di violenza ci sono dei fondati motivi per cui queste categorie, io metterei da parte i forconi, che un movimento strano, anche con alcune ambiguità e molte infiltrazioni non belle, ma io parlerei di categorie come quelle degli autotrasportatori e dei pescatori, che ieri hanno dimostrato davanti a Montecitorio che hanno dei problemi reali, quasi di sopravvivenza. Quindi non vanno a protestare così per ragioni ideologiche, vanno a protestare perché con l'aumento soprattutto del prezzo della benzina, delle accise sulla benzina, che è la vera maledizione dell'economia italiana, perché è un moltiplicatore di costi, e queste categorie di piccoli proprietari, di piccoli pescatori sono quasi alla fame, alla rovina. Se poi aggiungiamo questo dato incredibile dello Stato che è creditore, che è debitore di 70 miliardi nei confronti delle imprese, Stato inteso come pubbliche amministrazioni, con quello che abbiamo visto che sta succedendo soprattutto nel nord-est, i piccoli imprenditori che arrivano al punto di togliersi la vita, ecco che siamo di fronte a un'emergenza senza precedenti. Però anche se sul tema autotrasportatore il Sole 24 Ore da qualche giorno batte il tasto sul fatto che alcune delle rimostranze, delle proteste, delle rivendicazioni da parte della categoria sono poi ad alcune di queste rivendicazioni il decreto crescitaglio, liberalizzazione, come lo vogliamo chiamare, va incontro con alcune risposte. Tra l'altro ieri il ministro Passera ha detto siamo pronti a dare altri fondi per gli autotrasportatori. Vorrei però ad Alessandro Sallusti, direttore del giornale, fare una domanda che molti fanno in realtà anche nelle trasmissioni eccetera: perché tutto questo non è successo fino a 3 mesi fa, quando c'era il governo Berlusconi? Qualcuno ovviamente lo mette come sospetto, ecco, vedete, è arrivato Monti e la gente va in piazza a protestare. Non è che in 3 mesi la situazione possa cambiare radicalmente, Sallusti. No, certo, né in un modo né nell'altro, anche se per la verità alcune mosse di questo governo hanno sicuramente fatto da acceleratore a una serie di problemi, ma io credo che il problema sia un altro, cioè che è vero che la politica si porta dietro tante cose, diciamo così, brutte, la casta, la famosa casta, noi stessi l'abbiamo denunciata più volte, ci sono cose addirittura anche odiose dentro questa casta, ma il fatto è che un paese non può essere governato senza la politica. La casta è il meno dei mali, è il male minore rispetto ad avere la politica, perché la politica è la mediazione anche rispetto ai problemi delle categorie, ai problemi sociali, cosa che i tecnici e un governo tecnico percepito come tecnico di fatto non può fare, perché un governo tecnico deve solo decidere bianco o nero. Mentre un paese non si può governare col bianco e nero, per cui purtroppo questa è la dimostrazione che abbiamo bisogno della nostra vecchia cara politica, certo magari un po' depurata di alcuni suoi vizi, di alcuni suoi eccessi, ma bisogna tornare velocemente a governare il paese attraverso la politica. Cioè sta dicendo che dovrebbero far cadere Monti in Parlamento, no? Perché anche questa è una voce che oggi viene diffusa sempre più nei giornali, di un PDL soprattutto, che è il partito che ha i numeri maggiori in Parlamento, che sarebbe sul punto di dire vediamo un po' quanto lo facciamo durare. Sì, ma non è l'unica opzione, perché il PDL, io parlo del PDL, ma vuol dire lo stesso discorso potrebbe valere all'opposto per il PD, ha un'opzione di mandare il paese alle urne, oppure ha un'altra opzione, quello di governare, di chiedere, di pretendere di tornare al governo insieme ai tecnici, o comunque di essere protagonista veramente delle decisioni di questi governi tecnici, e non soltanto essere notaio e non soltanto fare il notaio. Io credo che in questa situazione non si possa andare avanti molto, non si può andare avanti proprio per quello che sta succedendo nel paese, non si può andare avanti perché altrimenti il prezzo che la politica pagherebbe al governo dei tecnici sarebbe eccessivo. Padellaro, la stupisce almeno è stupito per le forme di protesta, cioè il blocco del traffico, i tassisti che in un paio di giorni sono andati a Passo Duomo, hanno bloccato, hanno interrotto il servizio pubblico, il fatto di dire protestiamo ma lo facciamo così, in questo modo, bloccando anche una parte del paese, una parte della produttività, va bene oppure va male? No, ma certo che non va bene, ma diciamo sono delle forme che non sono sconosciute a questo paese. I tassisti già hanno fatto, i tassisti a Roma, perché Roma è una città particolare da questo punto di vista, hanno già protestato con forme forse ancora più forti, più dure. Io devo dire però una cosa, che io credo che su un punto tutte queste categorie siano d'accordo, come sono d'accordo, lo dicono tutti i sondaggi, la maggior parte dei cittadini italiani. Non c'è niente che suscita più riprovazione, più distacco della vecchia cara politica dei partiti. Cioè oggi non c'è sondaggio che dica che non dica che i partiti sono visti, la vecchia politica è vista come l'origine di tutti i mali. Arriviamo al punto che perfino la base della Lega, era una notizia che qualche giornale riporta questa mattina, interpellata sul governo Monti, dice tutto sommato meglio il governo Monti, è incredibile, Radio Padania, che non quello che abbiamo visto fino a questo momento. E io credo che la politica non possa cavarsela facilmente dicendo avete visto i tecnici che cosa ci stanno imponendo. C'è qualcosa, c'è un distacco, c'è una rottura che sotto certi aspetti è ormai che non può essere più sanata. Cioè, come dire, il disastro l'avete provocato voi, adesso non tiratevene fuori. Il disastro è tale che i vecchi cari partiti a un certo punto hanno chiesto a Monti di togliere quelle castagne dal fuoco che loro non erano più in grado di fare, perché non è che Monti si è impadronito del governo con un colpo di Stato, è diventato premier con il governo dei tecnici perché i partiti, tutti i partiti, quelli che erano al governo principalmente, quindi il PDL eccetera, ma anche quelli dell'opposizione che non avevano nessuna voglia di mettersi a trattare argomenti scottanti, hanno deciso di fare non uno ma 10 passi indietro, e il futuro di questo paese è un futuro con sempre meno partiti. Certo, anch'io penso che la politica sia fondamentale, ma non la politica di questi partiti, non quel tipo di politica. Eccoci qua, allora vorrei sentire Paolo da Roma che ci ha chiamato. Paolo, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Volevo, secondo me quando si fanno a questo momento dei ragionamenti si perde lo sfondo. C'è Monti che sostanzialmente ha detto, attenzione, l'analisi controfattuale che noi ci siamo trovati davanti avrebbe portato un azzeramento dello sforzo di 4 generazioni. Queste proteste, a mio avviso, sono la tutela di particolarismi. Faccio un esempio: il trasporto su gomma in Italia gestisce il 90% del trasporto delle merci, in Germania il 50%. I tassisti in Italia sono una categoria. Se noi pensiamo alla tutela che hanno queste persone in termini di oligopolio, è una cosa pazzesca. Cioè lei vede in Monti un uomo che sta cercando di scardinare degli interessi particolari delle varie piccole sottocaste? Questo mi sta dicendo. A mio sommesso avviso, Monti sta mettendo in evidenza i particolarismi italiani che sono assurdi. Ma voi pensate che per trasferire tra una casa, da un fratello a una sorella, deve andare da una terza persona a notaio? No, però Paolo, a parte che il cellulare la sta un po' abbandonando, il concetto è, non so, è un particolarismo, faccio questa domanda, la giro a Sallusti, è un particolarismo il fatto che i pescatori di Mazara del Vallo, certo che saranno una categoria minoritaria dal punto di vista numerico del paese, vadano a Palazzo Chigi o a Palazzo Montecitorio a protestare perché dicono costa troppo il gasolio e quindi non tiriamo più fino alla fine del mese? No, io non credo, io credo che sia una sorta di disperazione, perché ci sono alcune categorie veramente penalizzate da questi provvedimenti, ma in generale io credo che stiamo guardando la pagliuzza, cioè che sicuramente ci sono degli oligopoli che vanno scardinati, parlo anche del mio, l'ordine dei giornalisti, voglio dire, senza arrivare ai pescatori, ma il fatto è che questo paese è, guardiamo la pagliuzza non la trave, nel senso che questo paese ha un problema di governabilità, Paradossalmente la politica doveva avere e dovrà avere più potere, cioè chi vince le elezioni deve poter comandare, deve poter decidere, cosa che questa è impossibile. Ma la vecchia politica a cui faceva riferimento, che Padellaro dice quella mai certo, più, quella mai la più. La vecchia politica è che non poteva decidere, qualsiasi essa fosse, di centrodestra, di centrosinistra, perché non dimentichiamoci che in questa. Ma perché non poteva decidere? Cioè cosa la frena? C'è un assetto costituzionale e istituzionale che di fatto lo impedisce, perché c'è un associativismo esasperato che impedisce a chi vince le elezioni di poter mettere in pratica le promesse elettorali e fare le riforme che ha promesso agli elettori. E non dimentichiamoci un'altra cosa, che è vero solo in parte che la politica ci ha portato in queste condizioni, perché in queste condizioni ci ha portato proprio quel mondo bancario, finanziario, economico, che adesso pretende anche di fare da medico, mentre invece è stato il virus che ha infettato il paese. Sentiamo Giovanni da Milano, buongiorno. Buongiorno, cerco di essere velocissimo su un argomento che secondo me non è stato abbastanza sottolineato, in particolare per quello che è il fermo dei TIR. Non si è sottolineato che c'è stata una perdita di controllo da parte delle associazioni rappresentative dei trasportatori, perché in realtà il fermo è stato proclamato da Trasporto Unito, che è un'associazione molto piccola. La realtà è che hanno aderito anche moltissimi che appartengono ad altre associazioni che questo fermo non lo avevano proclamato. E questo secondo me è un rischio grossissimo, perché si rischia di perdere il controllo della situazione, il settore è alla disperazione totale e quindi oggi conviene il camion tenerlo fermo piuttosto che farlo circolare. Nel momento in cui non c'è più una rappresentatività che può andare a trattare, ci troveremmo di fronte a dei rischi secondo me molto molto molto grossi. Cioè dice gruppuscoli anche poco controllati. Ma ormai non sono più controllati, perché in realtà Trasporto Unito ha detto di allentare i fermi, ma mi pare che in moltissime zone d'Italia questi fermi non siano allentati, ma proprio perché c'è una disperazione tale per cui a tutti questi trasportatori conviene tenere fermo il camion. Poi ci sono, mi scusi, le dico solo un'ultima cosa, ci sono associazioni che, come si può dire che rappresentano i trasportatori? L'ANITA fa parte di Confindustria, che ha fatto un ricorso al TAR contro la messa in vigore delle tariffe minime di sicurezza, che significa pagare il trasportatore perché non vada a correre sulla strada e non vada ad ammazzare se stesso e gli altri perché deve arrivare a destino. Io su questa cosa non lo verificherò adesso, non è che sono tutti i dettagli delle varie associazioni, dopodiché il concetto è la protesta in generale che ci interessa. Padellaro, ha sentito Sallusti dire anzi invece dovrebbe essere maggiore il potere della politica, questa politica che per i gioco dei veti incrociati non ha il potere di poi controllare e fare le cose quando viene eletta? È un vecchio refrain oppure c'è una base di verità? No, non sono d'accordo, perché non si capisce perché ciò che sta facendo il governo Monti, che comunque si sta muovendo anche con degli errori, non si capisce perché non abbiano fatto i governi politici. Quindi evidentemente quei freni di cui parla Sallusti sono dei freni di interesse, di opportunismo che la vecchia politica, nei quali la vecchia politica è finita imprigionata. Mentre sono d'accordo sul, diciamo, la pagliuzza e la trave, cioè qui ci stiamo occupando di categorie, come è stato detto un minuto fa, alla disperazione, e mentre non sono state che sfiorate, ma forse neanche sfiorate, le banche, le assicurazioni, le autostrade, insomma qui c'è una delusione forte. Io mi auguro che ci sia una fase 2, una fase 3 che si occupi per esempio di questo strapotere delle banche. Sono d'accordo con Sallusti, le banche e il potere finanziario è alla base della catastrofe che stiamo vivendo. Il controllo del credito Non dobbiamo, per carità, non è che devono esserci delle sanzioni, queste, se ci sono delle violazioni della legge ci saranno, ma mettere finalmente le banche a disposizione delle imprese, dei cittadini, i mutui, insomma tutti i giornali hanno descritto il calvario di una giovane coppia che vuole ottenere un mutuo in Italia, semplicemente, lo abbiamo scritto anche noi, le persone, diciamo, le banche più affettuose ti dicono guarda lascia stare, non so, chiedi soldi ai tuoi genitori. Cioè, è una situazione incredibile. Sì, e quelli sono i veri questi sono i veri poteri che dice che vanno un po' scalfiti. La interrompo qui perché mi devo fermare. Ringrazio Antonio Padellaro, direttore del Fatto Quotidiano, e Alessandro Sallusti, il direttore del Giornale, con Elisabetta Fusconi, Alessandro Longoni e Viola Bottoni in redazione, il nostro Peter Bescapè in regia. Saluto tutti e ci troviamo domani. Eccolo lì l'alpino. A domani.